sul mio letto, io mi addormento e ritorna la tua forma. Muovi le labbra, però non mi parli. Dimmi soltanto se vuoi qualcosa da me. Thank you. all'improvviso poi io mi sono svegliato, avevo la tua voce nella mente. Ad un passo sono tra la riva e il mare a guardar la strada.